da oggi 15 febbraio fino al 19 marzo alla Biblioteca dell'Archiginnasio verrà inaugurata la mostra Pasolini 42, la formazione bolognese di un giovane intellettuale. Siamo qui per parlarne con il curatore Maurizio Avanzolini. Buongiorno Maurizio, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, grazie per questa opportunità. Allora Maurizio, ti chiedo innanzitutto che cosa troveremo all'interno di questa mostra che omaggia il grande Pasolini. Sì, si tratta di una mostra che si occupa di un periodo molto breve della vita di Pasolini. La mostra si chiama Pasolini 42 perché riguarda proprio quello che accadde nel 1942, che è un anno fondamentale per Pasolini, perché è l'anno in cui lui pubblica i suoi primi articoli, pubblica il suo primo libretto di poesie e fonda insieme ad altri la sua prima rivista, Il Settaccio. Quindi, come dice lui stesso, è l'anno in cui inizia la sua vera e propria carriera intellettuale, è un anno fondamentale. E in mostra si troveranno materiali molto molto rari, molto difficili da consultare, perché esistono pochissimi esemplari, ad esempio della rivista Il Setaccio, che è questa rivista della gioventù italiana del Littorio che fonda anche Pasolini, riviste rare all'epoca. Nel 2015, quando la trovammo sul mercato antiquario, non esisteva un altro esemplare in tutta Italia. Ora fortunatamente ho visto che qualche biblioteca è riuscita a procurarsela. Quindi materiale che è molto difficile da vedere e racconta proprio di come Pasolini inizia la sua straordinaria carriera intellettuale. Lo spazio espositivo sarà appunto la biblioteca, sarà contenuto all'interno della biblioteca dell'Archiginnasio, un altro luogo veramente meraviglioso di Bologna. Quindi ti volevo chiedere, Maurizio, proprio come sarà gestito all'interno dell'Archiginnasio lo spazio espositivo della mostra. Sì, la mostra è ospitata nell'ambulacro dei Legisti, che è il corridoio che porta alla sala dello Stabat Mater, che era l'aula magna dei Legisti quando l'edificio era occupato dall'università fino al 1801. La mostra è in alcune bacheche e su alcuni pannelli che sono in questo ambulacro meraviglioso, completamente affrescato, quindi anche il luogo certamente aiuta, molto bello, veramente molto bello. Come sarà possibile accedere appunto alla mostra? Sappiamo che sarà visibile fino a metà marzo, ma come ci si può accedere? Dunque, la mostra si può accedere gratuitamente, quindi non c'è bisogno di biglietti. L'unica cosa è che per accedere al palazzo è necessario il Super Green Pass e una mascherina FFP2. Per il resto, una volta entrati nel palazzo, si può visitare liberamente senza alcuna formalità. La biblioteca è aperta dalle 9 alle 19, dal lunedì al venerdì, e è possibile visitarla anche al sabato, perché il palazzo è aperto anche sabato mattina e sabato pomeriggio ed è chiuso soltanto la domenica. Ci saranno anche tre visite guidate che farò io, che ho il piacere di condurre io, ecco, per cui se qualcuno è interessato sul nostro sito www.archiginnasio.it compariranno le date di queste tre visite. Anche la visita è gratuita, non c'è bisogno di iscriversi, e se qualcuno è interessato sarà un grande piacere guidarvi alla scoperta degli esordi di Pasolini. Perfetto Maurizio, io ti ringrazio veramente per averci raccontato da più vicino questa mostra Pasolini 42, che ricordo ancora una volta alla Biblioteca dell'Archiginnasio fino al 19 marzo. Grazie ancora. Bene, grazie a voi, a presto, grazie.